Laura Esquivel. Una madre può essere crudele come la matrigna delle fiabe. Le donne, il cui comportamento verso le altre donne è stato corrotto dalla modalità patriarcale dominatrice, perdono ogni forma di empatia e di buon senso. È il caso di Doña Elena della Garza, madre di Tita e despota giurata nei confronti della figlia minore destinata, per tradizione familiare, a servirla, o meglio essere sua schiava. Laura Esquivel, scrittrice messicana tuttora vivente, è l'autrice del romanzo che la Scuola delle Donne vuole presentare come l'acqua per il cioccolato. Il titolo del romanzo in Italia è Dolce come il cioccolato, ma noi useremo la traduzione letterale del titolo originale perché quello italiano, come troppo spesso accade, è completamente fuorviante e improntato a un fastidioso, ammiccante marketing, specialmente se abbinato all'allusiva foto di copertina del libro. Laura Esquivel proviene dal mondo dell'educazione e del teatro pedagogico per l'infanzia. Ha scritto diversi programmi televisivi per l'infanzia. Ha fondato per il governo messicano il Taller de Teatro y Literatura Infantil e il Centro de Invención Permanente, di cui ha assunto la direzione artistica, con laboratori artistici per bambine e bambini. Questa sua impostazione si sente nel romanzo che proponiamo, poiché Tita, sia bambina che donna, si fa domande logiche che cozzano inevitabilmente con le risposte assurde e ottuse della madre, la quale rappresenta l'archetipica società repressiva patriarcale. Solo perché è rimasta vedova, Doña Elena si trova a dirigere la fattoria, altrimenti questa incombenza sarebbe spettata al marito e lei avrebbe avuto come unico scopo di vita quello di maritare le figlie, ovviamente tranne la più piccola Tita. Il romanzo viaggia tra ricette di cucina e magia nel tipico meraviglioso stile sudamericano delle nostre amate Isabella Allende e Ángeles Mastretta, e anche di autori. Possiamo pensare a Coelho, Jodorowsky, Márquez o Sepúlveda. Il connubio tra romanzo e cucina e la capacità del cibo di placare e pacificare gli animi ci riporta un altro grandissimo romanzo, Il pranzo di Babette, della danese Karen Blixen, che pur avendo in comune con il romanzo di Laura Esquivel una grande ricetta a base di quaglie, le famose Cayenne Sarcophage del primo e le altrettanto famose quaglie ai petali di rosa nel secondo, ne differisce però in maniera sostanziale per il fatto che nella storia danese le donne sono tra loro amiche, complici e solidali, mentre in quella messicana, tranne le due domestiche indigene, le donne di famiglia non hanno la minima empatia per Tita. Sicuramente l'America Latina è stata fortemente influenzata dalla corrotta mentalità patriarcale colonialista. Solo in tempi recenti le donne sudamericane stanno cominciando a ritrovare il loro profondo contatto con la sacra femminità. Laura Esquivel ha scritto per il cinema, poiché il suo primo marito ha diretto la versione cinematografica del romanzo e ha prodotto altri romanzi, tutti sul modello del cosiddetto realismo magico che contraddistingue la letteratura sudamericana, come ho detto. Interessante, per esempio, il romanzo La Malinche, che narra la vita romanzata di Malinche, la compagna azteca del conquistador Hernán Cortés, comprata schiava e poi divenuta interprete e amante. Nel romanzo, Laura controbatte le accuse che venivano mosse a Malinche di aver tradito il suo popolo, sostenendo che lei era convinta che Cortés avrebbe posto fine ai cruenti sacrifici di sangue che officiavano gli aztechi, per poi rendersi conto che gli spagnoli non erano meno sanguinari. E infatti, come altre due famose donne sudamericane vittime sacrificali dei piani sanguinari patriarcali, Anita Ribeiro da Silva Garibaldi e Evita Perón, anche Malinche morì giovanissima. Ma il nome di Laura Esquivel rimane soprattutto legato a Come l'acqua per il cioccolato, capolavoro tradotto in molte lingue e pluripremiato che non si può non aver letto o ascoltato almeno una volta nella vita. Proponiamo qui l'edizione Garzanti nella traduzione di Silvia Benso. Da Devana, buon ascolto.